una cosa che, cioè mia personale, che secondo me i miei genitori non, secondo me c'è una specie di libertà vigilata. Cioè ogni adolescenza, per ogni periodo è uguale. Come facevo da bambino con i gatti, farò l'avvocato, non il disperato, ma in un'altra vita, sarà in un'altra vita. Se sbaglio, ma mi sembra di aver capito che mi hai già capito e perciò non insisterò, non sarò il caporale, voglio i miei come li vuoi. Amore, magari in chiesa, certo in un'altra vita. Sarà in un altro mondo, in questo voglio andare fino in fondo. Vivrò la vita mia, assoluta bugia, non sugli schemi degli altri, sui passi piccoli degli altri, voglio una cosa mia. Come mi vuoi, come mi vuoi, avrei voluto essere come mi vuoi. Come mi vuoi, come mi vuoi, avrei voluto essere come. Bambino, la più grande gioia per tutta la famiglia, e poi l'hanno mandato a scuola ed è diventato un pezzo del progetto della vita dei suoi genitori, ma quel bambino è morto che era adolescente e delle idee dei genitori non gliene fregava niente.